Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Tra le preoccupazioni per la tenuta del governo, i guai giudiziari di Berlusconi, la Siria, la Costa Concordia, l'ossessione per lo spread, abbiamo la sensazione che da qualche tempo stiano scomparendo dalle cronache economiche di tutti i giorni i problemi delle famiglie. Il mercato del lavoro in Italia non si è rimesso in moto e ci sono troppi padri di famiglia, secondo noi, disoccupati, e queste situazioni generano a cascata grande preoccupazione per quei nuclei familiari che tra mutui, affitti, bollette, la spesa, la scuola non sbarcano il lunario e vedono il loro tenore di vita peggiorare costantemente. Alcune delle principali associazioni dei consumatori che conosciamo hanno organizzato, si sta svolgendo proprio in queste ore, un presidio a Montecitorio tutti gli anni, è ormai un appuntamento fisso in questo periodo, dal titolo Tasche vuote, con l'obiettivo di richiamare il governo alle proprie responsabilità e rivendicare, si legge nel loro comunicato, misure urgenti in grado di dare ossigeno alle famiglie. Una le abbiamo già sentita poco fa nell'intervista che Sergio Nava ha raccolto dal ministro del welfare Giovannini, questo reddito di inclusione sociale, ma potrà essere sufficiente? Le associazioni dei consumatori sollevano tanti problemi, ci sono i consumi, l'occupazione, come dicevamo, l'indebitamento e tutti gli altri indicatori della grave crisi economica in cui versano le famiglie italiane. Allora Salva Danaio raccoglie a margine della manifestazione le dichiarazioni dei presidenti di alcune di queste associazioni che stanno animando questa iniziativa e soprattutto chiediamo a voi ascoltatori quali sono le prove più difficili che vi siete trovati a superare in questi anni, qual è la voce del bilancio familiare che vi ha lasciato maggiormente a tasche vuote, qual è la spesa che massacra il vostro portafoglio. Ieri ad esempio abbiamo parlato a Salva Danaio delle rette dei nidi, cifre in certi casi assurde sia nel pubblico che nel privato, ma ci sono anche, come dicevamo, le bollette, la spesa, i carburanti, il mantenimento e la manutenzione dell'auto, per non parlare poi quelle giornate, quelle settimane in cui arriva la spesa improvvisa perché c'è il mal di denti, perché appunto l'auto si rompe, perché arriva una multa. Ci sono tante situazioni, allora condividetele con noi all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Scriveteci se volete anche su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina sentiamo intanto come va la manifestazione Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum. Buongiorno segretario. Buongiorno. Buongiorno a Lamberto Santini, presidente dell'ADOC. Buongiorno Santini. Buongiorno a tutti gli radioascoltatori e a lei. Grazie e benvenuto anche ad Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Tra l'altro abbiamo tre associazioni dei consumatori diverse, poi apparentemente tutte fanno un po' lo stesso lavoro, in realtà tra di loro si differenziano, si specializzano, per cui sentiremo quali battaglie in modo particolare ognuna di queste sta seguendo. Prima di tutto questo un'occhiata molto rapida alla borsa perché oggi è una giornata molto interessante. Segno più e anche abbastanza consistente tra le borse del vecchio continente. Dopo una partenza più prudente, adesso il bilancio è positivo per Milano, che è la miglior piazza d'Europa, anzi la migliore Madrid. Milano segna tuttavia un più 0,6%, più 0,4% a Parigi e Francoforte, Londra più 0,19%. Occhi puntati sul meeting del Federal Open Market Committee, braccio operativo della Banca Centrale Americana. Aspettiamo di capire se la Federal Reserve annuncerà l'atteso tapering, l'attesa riduzione del piano di acquisto di bond mensili che sta portando avanti da molto tempo. 85 miliardi di dollari di bond acquistati ogni mese, potrebbe iniziare una graduale riduzione di questo piano di riacquisto, forse di 10-15 appunto miliardi. Vedremo che cosa succederà e soprattutto quale sarà la linea sul fronte dei futuri tassi di interesse. A Milano corre Buzzi Unici, M più 6%, il gruppo ha ricevuto una promozione di giudizio da parte degli analisti di Goldman Sachs. Mediobanca più 2,54 dopo i conti comunicati ieri sera in perdita ma migliori delle attese, l'annunciata politica di riduzione delle partecipazioni ritenute non strategiche per Piazzetta Cuccia. Banco Popolare più 2, Prismian più 1,61, Finmeccanica più 1,58. Mediaset che cosa fa? Dopo la notizia di ieri sera relativa alla conferma da parte della Cassazione del risarcimento alla CIR di De Benedetti, fermo il titolo stamattina, forse in attesa anche del preannunciato intervento televisivo di Silvio Berlusconi. Il peggior titolo è di Assorin, -0,8, insieme ad Azimut, -0,8%. Da stamattina riflettori puntati ancora sullo spread, perché si stanno continuando a passare il testimone Italia e Spagna. Adesso il differenziale di rendimento dei titoli decennali è più favorevole all'Italia, perché lo spread è più basso di un paio di punti. Siamo a 243 rispetto al 245 della Spagna. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi e andiamo a sentire perché le organizzazioni dei consumatori, le associazioni dei consumatori hanno organizzato per questa mattina a Montecitorio la manifestazione Tasche Vuote. L'incremento dell'IVA all'orizzonte, che va ad aggiungersi alla tassazione già pesante sul reddito fisso e sulle imprese. I prezzi che aumentano. I servizi, anche quelli essenziali, che diventano difficili da sostenere o che implicano lunghe attese e ritardi. La casa di proprietà, che per un motivo o per l'altro diventa un lusso che non ci si può più permettere. E davanti agli occhi, privilegi, sprechi, grandi evasori. Sono tante le facce della crisi che le famiglie italiane si sono trovate a fronteggiare in questi anni, e sono tanti i motivi che hanno spinto alcune fra le principali associazioni dei consumatori italiane a manifestare questa mattina davanti a Montecitorio per chiedere maggiori risposte alla politica. Un buco nella tasca. Secondo uno studio dell'ADOC, una giornata tipo in Italia costa il 2,6% in meno che in Europa, ma ha un impatto sul reddito maggiore di molti altri paesi. Un lavoratore dipendente guadagna al netto delle tasse circa 1.400 euro al mese, mentre in Germania e in Inghilterra si vedrebbe in busta paga più di 2.500 euro. Inoltre in Italia i beni primari e indispensabili sono sempre più cari, dalle utenze domestiche ai trasporti al carrello della spesa. È per questo che le associazioni si mobilitano, facendo al governo alcune domande su temi precisi, sostenendo una ripresa che passa anche dal potere d'acquisto che torna a salire, dalle tariffe sociali pensate per chi è più in difficoltà, da un fisco più equo e trasparente. Sono tante le risposte necessarie, tante le ricette che possono aiutare a rilanciare il mercato e a tornare ad appesantire, e non di preoccupazioni, le tante tasche vuote d'Italia. Un buco nella tasca. Ricominciare. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, i vostri messaggi sul tema di stamattina. Alcuni ascoltatori mi prendono in giro per la voce. Sì, devo dire che effettivamente ultimamente in medicinali sto spendendo un po'. Detto questo, ce la faccio ancora. Cominciamo con Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, perché vedo che tra i punti e le richieste che questa mattina avete voluto presentare al governo c'è l'eliminazione categorica dell'incremento IVA previsto da ottobre, che avrà secondo voi effetti estremamente negativi, e questo mi sembra inevitabile, per le famiglie e per l'intera economia. Non so se lei abbia incontrato per caso Saccomanni oggi lì nei pressi di Montecitorio, ma avrà letto i giornali. Mi pare che purtroppo questo governo non riuscirà a prendere questa misura. Appunto, purtroppo l'aumento dell'IVA dal 1 ottobre mi sembra ormai abbastanza quasi certo che ci sarà, non trovano i soldi per poter fare questo taglio. Che mi dice su questo? Ma io ne sono certo, purtroppo ne sono certo, come non so come finirà l'IMU. Il problema dell'IVA è un problema molto, ma molto pesante, perché non è tanto che se prima compravo un vestito a 100 euro, ora con l'aumento di un punto percentuale arriva a 101 euro. L'IVA, come ha dimostrato il 2012, pesa enormemente sul paniere dell'inflazione. E non solo sull'inflazione, ma poi alla fine, come è noto, sul carrello della spesa, perché anche lì, come è noto, il carrello della spesa cresce percentualmente come il doppio rispetto al tasso di inflazione. Perché questo? Perché l'80% delle merci, come si sa, viaggia su gomma in Italia e non su rotaia, e quindi un effetto di un punto percentuale si scarica sulla benzina e sull'energia da trasporto, e quindi si scarica non solo sulle merci ma anche sui servizi. Non a caso stanno aumentando anche i biglietti della metro, piuttosto che dei pullman, piuttosto che dei servizi pubblici locali. Tutto questo sarebbe deleterio per per le famiglie intanto, ma per l'intera economia. Perché l'IVA, tra l'altro, come dire, quella componente anche qualche volta invisibile e trasparente che noi non vediamo quando paghiamo certi servizi o certe prestazioni, la vediamo per esempio, che ne so, se ci serve un se ci fa la fattura l'idraulico che ci fa il lavoro, appunto, la vediamo lì più 21-22%, ma su tante altre acquisti o spese che facciamo non la vediamo e in realtà le ricadute ci sono. Poi chiedete la detassazione a favore di famiglie a reddito fisso, lavoratori e pensionati per dare nuovo impulso alla domanda interna. Il ministro Giovannini lo presenterà proprio in queste ore e propone questo reddito di inclusione sociale. È sufficiente, Giordano, o ci vuole qualcosa di più? No, noi siamo convinti che bisogna tagliare invece le aliquote IRPEF più basse. Solo così le famiglie italiane avranno più soldi in tasca, potranno consumare di più e quindi si innescherebbe un circuito virtuoso, perché più consumi significa più produzione di beni e servizi, più produzione di beni e servizi significa occupazione e quindi nuovo reddito e quindi di nuovo consumi. Il reddito di inclusione è una soluzione parziale, ma noi siamo convinti che è il reddito dipendente e i pensionati che hanno una tassazione ormai insopportabile. Qualsiasi busta paga, se viene visionata, ci si accorge che tra il lordo e il netto, come dice anche Adoc nella sua indagine, pesa enormemente. Ci si arrabbia guardando la propria busta paga perché ci si accorge che magari hai 2.000 euro di lordo, ma poi come netto hai 1.300-1.400 euro. E lì c'è l'altro problema, tra parentesi, del cuneo fiscale, che pure dovrebbe essere all'ordine del giorno di questo governo, ma anche lì ancora non si riesce a fare. La coperta è troppo corta per tutti. Cosa ci sia questo ordine del giorno ancora non abbiamo ben capito. Appunto. Giordano, allora le chiedo un minuto di pazienza, peraltro poi non è che si chiude un anno difficile per riaprirsi un anno facile. L'anno prossimo, se anche questo governo dovesse portare a casa la cancellazione totale dell'IMU con anche la definitiva abolizione appunto del possibile saldo di dicembre, l'anno prossimo abbiamo la nuova service tax, anche qui saranno dolori in questa nuova rimodulazione di questa appunto tassa. Detto questo, visto che l'ha evocato questo studio, andiamo a raccontare che cosa avete scoperto voi di Adoc. Lamberto Santini, il presidente di questa associazione dei consumatori, che ha monitorato che un italiano spende ogni giorno in media poco più di 34 euro, circa il 73% del suo reddito quotidiano al netto delle tasse. Una giornata tipo in Italia paradossalmente costa il 2,6% in meno che in Europa, ma naturalmente i redditi sono diversi. Che voci avete tenuto in considerazione in questa rilevazione, Santini? Noi abbiamo utilizzato voci semplici ma molto efficaci, tanto fuori casa, le bollette delle tariffe, a luce, acqua, gas, rifiuti, il trasporto pubblico, due biglietti, andata e ritorno, trasporto privato, il costo della benzina, che è una delle voci pesanti per chi opera nel privato. Pensiamo che noi in Italia il costo, il rincaro dei carburanti è del 12, incide per il 12,7%, pensiamo in Germania un 6,5%, in Francia il 7,7%, in Spagna l'8%. Sono voci queste, come la cena fuori casa o la colazione, che riportano un'anomalia pesantissima per il nostro paese. Noi abbiamo un impatto in percentuale, considerando la spesa giornaliera di una famiglia o di un singolo di 47 euro al giorno, il 72% di impatto percentuale contro il 36% della Germania, il 50% della Spagna, il 48% dell'Inghilterra, il 50% della Francia, il 55% della Svezia. Cioè noi abbiamo questo dato drammatico, che abbiamo stipendi netti più bassi e costi doppi rispetto al resto d'Europa. Le leggo un messaggio di un ascoltatore, Santini. Sono un operaio artigiano, se lavoro tutto il mese guadagno 1150 euro, se va bene, se lavoro tutto il mese, precisa, e se ne vanno solo 150 euro di benzina. Chiuso. Questo è un dato di fatto. Ecco. Cioè noi abbiamo, per quanto riguarda il consumo privato, e questa è una spesa per chi lavora con l'auto propria, fissa nell'arco dell'anno, un 12% in più sottrae dal reddito familiare. Come dicevo, la Germania spende il 6,5% a parità di condizioni, ma anche qui c'è la capacità di reddito molto più bassa. Come diceva Pietro Giordano, il nostro studio che abbiamo fatto, una famiglia nostra ha 1.400.000 di reddito potenziale, in Germania 2.500.000, tenendo conto che questo dipende dal fatto che noi paghiamo molte più tasse, abbiamo tariffe più alte, e all'interno di queste tariffe si nascondono cose incredibili come quella che praticamente nessuno controlla la bolletta, ma le bollette arrivano certo, tranquillamente, poi perché sono ben indecifrabili, d'altronde, quindi siamo scoraggiati. E altri tipi di tariffe ponderati, e noi diciamo imponderabili perché nessuno sa quali sono i veri consumi. Quindi la prima riforma da fare è pagare quello per cui un cittadino, una famiglia consuma regolarmente ogni 2 mesi. Questo non avviene. Quindi basta anticipi e poi basta tutto il sistema dei conguagli che ci infastidisce. Quindi intanto insomma noi bollette più trasparenti. Santini, guardi, adesso so che siete tutti a Montecitorio ancora e quindi stiamo realizzando questa trasmissione con voi lì in diretta davanti appunto al Palazzo del Parlamento, quindi ogni tanto vi perdiamo. Mostaccio, le chiedo un minuto di pazienza perché devo fare la prima pausa, così almeno non la mortifico facendola intervenire pochi secondi e le do più spazio nella seconda parte. Mi aspetta? Certo. Ottimo. Certo. E intanto c'è anche Paolo da Milano pronto ad intervenire fra i nostri ascoltatori e non vi sto neanche a dire in quanti ci state scrivendo. C'è chi ci racconta che rinuncia alla cura dei denti, questo ne abbiamo parlato tante volte, c'è chi si lamenta per la differenza della spesa, del carrello della spesa fra una città del nord Italia e una del sud Italia, e poi tanti altri commenti che vi leggerò tra pochi minuti. Salva Danaio. Le tasche vuote, colpa di quest'euro che mia moglie spende e non dice niente a me. La vedo correre di qua e di là, si compra la città. E abbiamo trovato anche questo motivo intitolato Tasche vuote di Ciuriddu, un comico siciliano, e Giovanni Cangialodi. Insomma, ci sembrava assolutamente pertinente questa canzone con il tema che affrontiamo oggi, perché proprio di tasche vuote dei consumatori italiani parliamo, visto che questa mattina si è svolto questo presidio che si sta concludendo proprio in questi minuti, Tasche vuote a Montecitorio, organizzato da Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsum, Cittadinanza Attiva, Federconsumatori e Movimento Consumatori, tutti in piazza per rivendicare risposte concrete a sostegno delle famiglie. Le risposte che attendono sono molte, una su tutte, lo dicevamo all'inizio, quella relativa all'IVA. L'aumento del 1 ottobre al 22% sembra essere inevitabile, le associazioni dei consumatori chiedono invece appunto che non si faccia questo aumento, perché chiaramente avrà ricadute totalmente negative sul portafoglio delle famiglie e sull'intera economia, ma le richieste appunto sono molte altre. Abbiamo sentito nella prima parte del programma, ma adesso li risentiremo, Lamberto Santini, presidente dell'ADOC, e Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum. Adesso un commento anche con Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori, ma prima gli vorrei anche così dare qualche spunto in più sulla base di quello che ci raccontano i nostri ascoltatori. Il primo che vorrei sentire è Domenico dalla provincia di Macerata all'800240024. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Volevo confermare, come dice la vostra trasmissione Tasche vuote, che la situazione è molto difficile per una famiglia italiana. Io sono sposato, ho 38 anni e 2 figli. Mm-hmm. E sto pensando con mia moglie di staccare la bolletta del telefono fisso, la rete fissa. Mm. Sì, anche perché, sì, tanto se avete magari un abbonamento conveniente che vi permette di conversare tra cellulari, qualche volta effettivamente quella è una spesa extra. Sì, è utile per Alice, per internet, però andrei a risparmiare 600 euro all'anno. L'anno, li butti via, è una bella rata di mutuo, poi non so se lo paga Domenico. Quindi questa è la spesa che per lei, diciamo, intanto è quella che potrebbe essere tagliata. Quali sono quelle proprio insopportabili che deve fare Domenico? Quelle che quando arrivano dici, ma mannaggia, proprio non le sopporto più. Guarda, quelle più difficili, come dite voi, cioè quelle improvvise, quelle e le peggiori, perché uno cerca di pianificare giornalmente, quasi giornalmente, e le più dure sono le bollette fisse che aumentano sempre, Tares, immondizia, che prima si chiamava spesa, diciamo, ecco, poi il gas metano, la luce, cioè è un continuo, io e mia moglie teniamo da parte le bollette vecchie degli anni passati, è un continuo aumentare. Mi ritengo fortunato perché ho ritrovato lavoro. Lavoravo per un'azienda, eravamo 600 dipendenti, ha chiuso nel gennaio 2011. A 38 anni le garantisco che è difficile ritrovare lavoro. Lo guardi, ci credo ciecamente, totalmente. Però Domenico ci è riuscito, si è rimesso in carreggiata e noi ne siamo felici, perché io sono marchigiana, lei lo sa, lo racconto tante volte, so benissimo che in questa regione ci sono moltissimi problemi. Grazie per la sua testimonianza. Sento anche Alberto dalla provincia di Bergamo, che vuole così un po' girare il coltello nella piaga della questione dell'IVA, e poi vado ad Alessandro Mostaccio. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Tutto grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Al di là di tutte le questioni sentite, che sono tutte sacrosante, quindi il fatto che ci sia uno stato vessatore che mette le mani sulle tasche della gente ormai credo sia cosa risaputa e nota. Il problema vero è che non c'è un patto fra lo Stato e il suo suddito, in buona sostanza, cioè non c'è mai una tassazione che sia di scopo. Faccio un esempio banale: in Svizzera hanno chiesto tempo fa l'aumento dell'IVA perché c'era da ripianare un buco sulla previdenza di un paio di cantoni. L'hanno stabilito per 14 mesi c'era un aumento di IVA, è stato sottoposto a referendum, è passato in una settimana, è finito lì. C'è un modo di relazionarsi fra chi gestisce la cosa pubblica e il gestito che è totalmente diverso. Lei sa, Alberto, quante volte il Sole 24 Ore adesso ha monitorato le violazioni dello statuto del contribuente, appunto, fatto proprio perché una volta che si decide una cosa non è mai quella fissa e puntualmente si ribaltano tutte le decisioni, soprattutto in termini fiscali. Mi scusi se la interrompo, è che quando si sentono i discorsi che purtroppo oggi siamo costretti a sentire, fortunatamente io sono in una situazione di quasi privilegio, nel senso che nel passato ho avuto modo di accumulare risorse che adesso sto in qualche modo consumando. È un altro problema, tra l'altro, Alberto, perché le famiglie italiane sono sempre state delle grandissime risparmiatrici. Adesso, cioè, io a mio figlio, ai miei figli, non riuscirò a dare quello che mi ero riproposto di poter lasciare. E che lei ha magari avuto dai suoi genitori, certo. No, guardi, per carità, ho cominciato da solo, ho fatto e adesso mi richiudo il giro, in buona sostanza, ma lo richiudo a buon fine, cercando di dare educazione e capacità di relazione dei miei figli che diventino dei cittadini del lo mondo. Stato non ci sta aiutando, lo Stato non ci sta aiutando, Alberto, è per grazie. Quello che abbiamo bisogno di meno Stato. Mi scusi se ho Va fatto bene. Questa fisica. Guardi, se l'ascoltasse Oscar Giannino sarebbe felicissimo della sua presa di posizione, perché lei ha portato avanti questa battaglia per tantissimi mesi proprio da questi microfoni. Alessandro Mostaccio, non l'ho invitata per scherzo, adesso naturalmente la valorizzo adeguatamente, le chiedo un commento sulle due storie che abbiamo sentito, se vuole. Bello il tema del finanziamento di scopo, dice, se l'IVA potesse servire questo aumento, magari, che ne so, proprio per aumentare le pensioni minime o fare tante altre cose, sarebbe più accettabile, più digeribile. Il problema è che qua si naviga sempre a vista con qualunque provvedimento, e su questo bisogna dare atto a quello che dicono gli ascoltatori. Che ne pensa? Ah sì, il problema effettivamente è proprio questo, che ormai non riusciamo a uscire da un periodo emergenziale, i provvedimenti e le normazioni hanno un respiro cortissimo, ogni volta che si riunisce il Consiglio dei Ministri c'è metà popolazione nazionale che trattiene il respiro e si va a colmare costantemente singole buchi di bilancio o partite senza avere una strategia di fondo che dia fiducia a questo paese, a chi fa impresa, ai lavoratori. Sì, riduci il cuneo fiscale, ma se non c'è nessuna strategia macroeconomica per rilanciare l'occupazione, anche sulle strutture, non riusciamo a uscire dalla normazione di emergenza. E poi le due testimonianze, e di fronte abbiamo un'Italia reale che sa di che cosa sta parlando e sa benissimo che i consumi che sono ancora comprimibili sono pochi, si può rinunciare tutto al più ad avere una rete fissa telefonica a casa, ammesso di essere una zona che è coperta dalla telefonia mobile, ecco. Ma non si può rinunciare alla luce, non si può rinunciare all'acqua, non si può rinunciare al gas. E quindi alla fine i pochi consumi, settori di consumo che sono comprimibili, alla fine diventano l'alimentazione, diventano le cure sanitarie, diventa il vestiario, cioè poi quello che è proprio intollerabile è che si vede che lo Stato, quando si parlava di patto sociale che non esiste più, continua a fare il forte con i deboli, con le famiglie, e il debole con i forti. Cioè questa cosa per cui alla fine il fisco è feroce con i deboli, e poi invece la Corte dei Conti dimostra che i concessionari del gioco d'azzardo, che poi è gioco di Stato, non è d'azzardo, è legale, hanno evaso per anni totalmente il fisco, perché non si collegavano ai circuiti di lottomatica, e poi gli si va a fare una transazione, un condono, e si è contenti perché per con quei 600-700 milioni si permette di abolire l'IMU, e poi tanto due mesi dopo aumenti l'IVA. Perché dobbiamo fare un condono a chi è evaso totalmente il fisco su queste macchinette? Quelli sono consumi ombra, perché 80, esatto, una fiscalità, esatto, organizzati secondo una fiscalità ombra, e soprattutto che devastano le famiglie per tutti i soldi che perdono appunto con questi giochi, e poi tutto anche la piaga sociale che questo fenomeno determina. Mi devo fermare perché abbiamo i suggerimenti per Chi in Viaggio, poi torno di nuovo alle vostre come dire accaloratissime prese di posizione, e tra l'altro volevo ritornare poi anche con Pietro Giordano, glielo anticipo dopo aver sentito altri ascoltatori, al tema del sovraindebitamento, perché ci sembra che forse un po' meno del passato adesso questo tema guadagni la ribalta della cronaca. Vorrei capire se è un po' più tranquilla la situazione, o se le famiglie appunto si indebitano di meno perché proprio non consumano più come in passato, e quindi non sono neanche obbligate a chiedere prestiti e quindi ad indebitarsi più delle loro capacità. Salva Danaio. Ho un buco nella tasca, ogni cosa che ci metto scompare. Ho un buco nella tasca, ricominciare. Giovanotti, un buco nella tasca, le tasse più odiate in questo momento dagli italiani, ce ne state raccontando tante, al 349-238-6666, Claudio ci scrive: quella che odio di più è il canone RAI. Un altro ascoltatore: la più ingiusta, la TOSAP, 65 euro l'anno per poter uscire di casa in quanto possiedo una griglia per sorpassare il fosso che mi separa da una provinciale. E poi la tassa odiosa è il bollo auto, se arriveranno le elettriche finiscono come le sigarette tassate. E poi ancora altri ascoltatori che ci dicono quello che pensano sulle marche da bollo, nelle molteplici pezzature vanno applicate ovunque per ogni atto eccetera. Guardi, io quest'anno due volte all'estero, due volte l'ho dovuta fare quella sul passaporto, 40 euro a giugno, e adesso la devo rifare per andare via tra qualche tempo. Effettivamente 80 euro vi ho buttati, secondo me. Allora, Elio da Roma, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Allora, semplicemente ascoltavo la trasmissione e sentivo le denunce sull'eccesso di tasse eccetera eccetera, mi trovavo tra le mani la bolletta di Enigas. È scandaloso, a parte l'illeggibilità e la non interpretabilità degli addebiti. Allora, io ho consumato 13 metri cubi, detto da loro, siccome già ne avevo pagati 6, me li hanno defalcati, per 7 metri cubi io devo pagare una bolletta di 32,32 euro. Questa è la situazione. Loro possono inventare poi tutte le giustificazioni che vogliono, le balle che vogliono, tenga presente che non ci sono oneri a mio carico di altra natura, sì, sì. È solo la spesa effettiva. Quant'è la tassazione su questi 32 euro, in che rapporto saranno, quanto pagherà appunto? La tassazione che sicura che qui io riesco a se lei mi dice io faccio 32,32, che è la cosa che a me interessa, diviso 7 fa 4,4 circa, quindi un metro cubo di gas non è vero che costa un euro, ma costa 4,4 euro. Questa è la realtà. Grazie Elio, 32 euro ancora. Infine per la trasmissione. Grazie tante, grazie molte, anche se stamattina qua, se ce la farò ad arrivare alla fine sarà un miracolo. Paola dalla provincia di Parma, pure lei, pur avendo avuto un marito direttore dell'azienda dei pubblici servizi della sua città, le sue bollette non le capisce lo stesso, non gliele interpretava, non gliele traduceva suo marito. Paola, buongiorno. Buongiorno, sì, è veramente così, ha avuto un impiego... È stato dipendente dell'azienda di un certo peso, come ho detto, eppure le bollette che arrivano non le capisce, ma non solo, ma anche noi abbiamo degli amici, non dico, ma insomma sono tutti laureati presso poco, nessuno di loro capisce una bolletta, nessuno. Allora, Paola, grazie. Tra l'altro ho detto, ma telefona, senti, ma lui pensa che sia... proprio inutile. Su questo poveretto è scoraggiatissimo. Grazie Paolo. Allora, l'autorità garante dell'energia mi pare che dovesse portare avanti un progetto, adesso richiederemo conferma, me lo ricordo solo così un po' in maniera superficiale, un progetto di bolletta semplice, di semplificazione di questo documento che arriva a casa. Che fine abbia fatto non si sa. Pietro Giordano, vogliamo rincarare la dose? Non si sa, perché non si saprà mai, perché il sistema dell'energia è un sistema allucinante. Lo stesso sistema che l'AEGE ha messo in piedi con l'acquirente unico e con lo sportello del consumatore, alla fine è un call center fatto da decine e decine di persone spesso precarie, che non danno risposte, o perlomeno raccolgono le lamentele ma non danno risposte. Il vero problema è che non c'è trasparenza nella pubblica amministrazione, ma anche nella privata, nel senso che queste aziende emettono bollette illeggibili, a volte facciamo fatica pure noi dell'associazione dei consumatori a leggerle. Questo vale anche per le banche, per i contratti, vale per tutto il sistema, che è un sistema aulico da un punto di vista, ma non a caso, perché è una sorta di cortina fumogena che non fa capire cosa si sta pagando e cosa e quali sono le quantità. È un problema che abbiamo posto all'attenzione della EGE, ci ha detto che sarebbe intervenuta, ad oggi non abbiamo notizie sul fronte. Il progetto è stato in questo momento. Le società che devono essere messe d'accordo su questo sono probabilmente un po' difficili da... esatto. E siccome le lobby purtroppo in questo paese funzionano, forse è la cosa che funziona maggiormente. Infatti, si vede tante volte come entrano certi provvedimenti appunto in Parlamento e come ne escono a leggi conclusive. Senta Giordano, il tema del sovraindebitamento, lo chiedo a lei perché come Adiconsum state gestendo questo fondo antiusura che si guadagnava molta più ribalta della cronaca qualche tempo fa. Non so se adesso se ne parla un po' meno perché non è un tema interessante, perché c'è meno preoccupazione da questo punto di vista, ma lo stato dei debiti delle famiglie italiane qual è? Lo stato è rimasto invariato, nel senso che però, come diceva, non c'è più un sovraindebitamento, nel senso che le finanziarie e le banche danno meno prestiti per il consumo, danno meno mutui, e quindi da un lato hai un calo, però quello che stiamo vedendo, che non fa molta audience, è che le persone non riescono a pagare i mutui contratti, quindi non è chi ha preso il prestito con noi grazie al fondo sovraindebitamento non riesce a pagare le tasse, le rate per poterlo estinguere. Questo è il dato: da una parte ci si sovraindebita meno perché non si consuma più, ma dall'altro non si riesce a sopportare quell'impegno che si era preso con il nostro centro di misura. Questa dimostrazione ulteriore, concludo, che il dato reale, visto che parlava di che cosa le famiglie non riescono a pagare, l'80% dei crediti inesigibili in questo paese riguardano, guarda caso, le utenze domestiche, quindi luce, gas e telefono, riguardano i mutui e riguardano i prestiti personali, cioè le persone che magari hanno fatto un mutuo 10 anni fa non riescono a pagare il mutuo, le persone che devono scegliere tra portare il mangiare a tavola o pagare la rata del condominio o della luce del gas, fanno fatica anche a pagare la rata della luce del gas. Allora, Andrea da Milano, io non riesco a farlo intervenire. Andrea voleva raccontarci che per tagliare i costi di casa sua ha staccato il telefono fisso e usa una chiavetta per internet, quindi un consumo variabile. Loretta dalla provincia di Brescia invece voglio sentirla, perché il tema della cura della persona è importantissimo. Loretta. Allora, buongiorno. Rapidissima, che devo chiudere tra poco, grazie. C'è una facoltà in Italia di odontoiatria che ormai sono tanti anni che è attivata, specifica, e non esistono reparti di odontoiatria che facciano una cura completa, con ticket probabilmente, sarà tutto da vedere, sul servizio sanitario regionale o nazionale. Cioè dobbiamo organizzare i pullman per andare in Croazia, in Slovenia, a farci curare. Non è accettabile oggi, non è accettabile. Lamberto Santini, presidente di ADOC, lascio a lei le conclusioni. Insomma, però abbiamo capito magari che due temi importanti sono usciti. Sì. Le bollette, non più trasparenti. Ma poi due dati, Deborah, importanti, scioccanti. È stato accennato al gioco. 7-8 miliardi è stato in cassa da questo discorso, a parte le transazioni che non deve fare perché non le fa con i singoli cittadini, ma questi 6-8 miliardi a nostro avviso, ad avviso Stato, che dovrebbero entrare nel percorso delle spese sociali per evitare il turismo sanitario, e cioè dobbiamo ritornare ognuno, ogni soggetto, a fare il proprio mestiere. Le banche nel 2012 hanno dato 44 miliardi in meno alle imprese, diminuendo l'occupazione. Queste sono cose che vogliamo e dobbiamo ribaltare. La detassazione sui libri di scuola, sui trasporti, rappresentano un fatto strutturale di detassazione per questo paese ormai indispensabile. Non dobbiamo inventarci cose straordinarie, fare l'indispensabile, perché le famiglie italiane ritornano a creare e a produrre reddito. Mi sa che questo presidio tasche vuote dovrà essere più frequente, Santini. Ho questa sensazione, non una volta all'anno come quando comincia la scuola c'è il presidio, bisogna farlo più spesso, anche se voi effettivamente di lamentele ne, come dire, denunciate tante, qualche volta purtroppo non si ottengono però dei risultati, ma ne torneremo a parlare. Grazie a Lamberto Santini, Pietro Giordano, Alessandro Mostaccio, torniamo domani con voi, e venerdì c'è Valeria De Rosa. A tutti buona giornata. Salva Danaio.